Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuto all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune rapide informazioni di servizio. La prima riguarda il nostro sito radio24.it. Potete scaricare, sentire tutte le nostre puntate in tempo pressoché reale. Potrete scaricare via podcast, dialogare con i giornalisti che hanno un blog, il mio lo conoscete, è Guardie o Ladri. Lo trovate anche sull'home page del Sole 24 Ore. Seconda informazione di servizio è quella che riguarda la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, come voi sapete, io non amo i casi personali, non perché non abbia il massimo rispetto per le situazioni che vengono segnalate da ciascuno di voi, ma perché in quanto personali non raccolgono l'interesse di una platea di persone e soprattutto non coinvolgono tanto emotivamente quanto, diciamo così, dal punto di vista sociale, economico, finanziario e quant'altro, una platea appunto ampia e vasta di persone. Di tanto in tanto sapete che comunque prendo anche alcune di queste lettere quando sono particolarmente interessanti. Oggi ci troviamo in un caso in cui devo dire francamente finora non mi ero mai trovato, vale a dire la segnalazione di un radioascoltatore, di una radioascoltatrice romana che fa presente, è andata a trovare una cosa veramente molto molto interessante nelle pieghe, diciamo così, del, ma poi lo sentiremo dalla sua viva voce, nelle pieghe di una legislazione che riguarda da una parte la cassa integrazione a zero ore, dall'altra parte il divieto di cumulo tra lavoro autonomo e cassa integrazione. Insomma, una situazione complessa che il nostro radioascoltatore, la nostra radioascoltatrice Anna, che è stata per una vita in Alitalia, oggi ci spiegherà e avremo, come dire, come sponda per cercare di capire un po' questa diatriba, questo supposto abuso che viene fatto nei confronti di una lavoratrice, la presidente della Commissione Lavoro dell'Ordine dei Commercialisti di Milano, Maria Luisa De Cia. Parto da lei nel dare il buongiorno. Buongiorno De Cia. Buongiorno a voi. Do il buongiorno alla nostra radioascoltatrice Anna. Buongiorno Anna. Buongiorno a lei, buongiorno a tutta la redazione. E le chiedo, la prego di esporre il suo sintomatico caso. Prego. Molto sinteticamente, io sono una ex lavoratrice, oggi cassa integrata, cinquantenne, madre di 3 figli, che vive male la sua condizione di status di cassa integrata. In che senso? Nel senso che ho cercato di darmi da fare, quindi di trovare un'altra attività. Essendo laureata in legge mi sono abilitata, quindi ho superato l'esame da avvocato, questo il 18 novembre scorso, e quindi oggi sarei pronta a iniziare l'attività da avvocato. Benissimo, allora due punti fermi, mettiamoli. Lei si trova in cassa integrazione, ma avendo anche una laurea ha detto: in questa condizione mi trovo male, vediamo di farla fruttare, chiedo l'abilitazione, cioè nel senso faccio l'esame, e viene abilitata all'esercizio dell'attività forense il 18 novembre del 2009. Benissimo. Quindi ho utilizzato quest'anno di cassa integrazione principalmente per studiare, perché l'esame, certo, è estremamente difficile. Certo. Dopodiché sapevo che nel luglio del 2009 il governo ha emanato un decreto, senza stare tanto a specificare il decreto, un decreto anticrisi che tutti conoscono, nel quale prevede degli incentivi a favore dei cassa integrati che intendono iniziare un'attività autonoma. Ho cominciato a monitorare la fattibilità della legge, mi sono accorta che mancava un decreto attuativo e comunque ho sempre continuato a studiare, quindi la cosa mi interessava fino a un certo punto. Io ho dato anche tempo al governo, insomma, agli enti preposti di attivare questi, di emanare i decreti attuativi. Allora mi scusi se la interrompo un secondo e se ho sorriso a quello che ha detto, perché secondo me ha detto una cosa bellissima: ho dato tempo al governo di emanare i decreti attuativi. Visto che il governo dovrebbe essere il massimo dell'amministrazione della cosa pubblica, è giusto che un cittadino dica a chi lo governa: ti do il tempo per fare quello che tu hai promesso. È giustissimo, lo sottoscrivo. Allora, quindi lei ci sta dicendo: decreto anticrisi, incentivi a chi era in cassa integrazione. A quel punto che cosa succede? Mancano i decreti e? Mancano i decreti attuativi. I decreti attuativi in realtà vengono emanati nel dicembre 2009 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale a febbraio 2010. Okay. Quindi a distanza di 9 mesi dall'emanazione della legge. La legge diventa però effettiva. A questo punto mi reco all'INPS per fare la domanda inerente agli incentivi che vorrei, sui quali vorrei basare tra l'altro la mia nuova attività, e mi viene detto che manca un modulo, manca il modulo, esiste la legge ma manca il modulo dell'INPS. insomma, resto abbastanza esterefatta, comincio a cercare anche in rete questo modulo, lo trovo a distanza di alcuni giorni, mi rego nuovamente all'INPS, presento il modulo, presento la domanda e adesso mi viene detto che manca la circolare INPS affinché appunto questa legge, che è vigente, ripeto, da oltre un mese e mezzo, da oltre un paio di mesi, affinché questa legge sia in realtà effettiva. Ecco, e per lei questo qui che cosa comporta? Cioè questa serie di ritardi, questa serie di mancate applicazioni, la mettono in difficoltà in cosa come cittadino? Oltre a tutto quello che ci ha già raccontato, per carità, che è già sufficiente. Beh, in realtà la legge prevede che questi incentivi saranno erogati in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, quindi il 2009 è già passato e il 2010 sta per, insomma, mancano pochissimi mesi al 2010. Inoltre, naturalmente io continuo ad essere una semplice cassa integrata che percepisce quindi la cassa integrazione da parte dello Stato e quindi a danno di tutti i cittadini, e questo non mi permette assolutamente di poter iniziare l'attività autonoma alla quale adesso, ecco, insomma, avrei diritto. Esattamente, questa mi sembra la cosa più grave. Quindi praticamente avete capito perché in realtà è una lettera personale, ma che riguarda una platea di persone, perché questo famoso decreto del governo che doveva aiutare con incentivi casse integrati che avessero voluto rifarsi una nuova vita economico-sociale, diciamo così, rimanda ad una serie di moduli che tanto bisogna andarsi a cercare tra le pieghe di internet, per chi sa navigare, non dimentichiamolo mai, circolari che arrivano o non arrivano, insomma riguarda chissà quanti di voi all'ascolto, ma soprattutto devo dire grazie alla nostra radioascoltatrice, perché è andata a mettere il dito su una piaga che finora non era stata sollevata. Intanto gli incentivi per il 2009 sono volati, intanto quelli per il 2010, se aspettiamo ancora un po', diventa nuovamente Natale, ma soprattutto la nostra radioascoltatrice non può esplicare la propria attività, la nuova attività, l'attività forense. Allora, il caso mi sembra bellissimo, lo dico con tutto rispetto ovviamente per Anna, drammatico allo stesso tempo ovviamente, perché chi vuole cercare un lavoro, vuole cambiare lavoro, vive veramente un dramma, e questa è la storia chiarissima. Chiamo l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano a commentare con noi questa denuncia. Lo faccio con chi l'ho già detto, appunto, con chi studia questi casi, questi ed altri casi, e presiede la Commissione Lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Maria Luisa De Cia, appunto, dicevamo prima. Allora, a lei un commento, De Cia. Non posso che essere solidale con la signora, ahimè, purtroppo anche noi ci troviamo continuamente a dover affrontare questi disguidi e queste lentezze burocratiche della pubblica amministrazione. Posso solo dire che per quanto riguarda la presentazione della richiesta di anticipazione del trattamento, il modulo è reperibile ora. Sì. E si chiama SR78. Quindi, lo può ripetere per piacere? Sì, il modello è, le dico la definizione completa, sì. Modello ANT Ancona Napoli Torino / AMM, sì. Ancona Milano Milano, sì. E il codice Savona Roma 78. Sì. Benissimo, allora così, quindi, almeno chi si troverà nella stessa condizione di Anna, una fatica risparmiata. Ecco, ma a questo punto la nostra radioascoltatrice che cosa può fare? Può fare causa all'INPS, al governo, appellarsi a voi? Voi vi farete tramite anche di questa situazione, perché ne rappresenterà una platea. Ci dica un po', De Cia. Ma allora, io direi che innanzitutto dovrebbe presentare la domanda, perché il presupposto è ovviamente la presentazione della domanda, e solo all'ammissione del beneficio, così recita la legge, e comunque prima dell'erogazione del beneficio la lavoratrice potrà cessare il rapporto di lavoro. Quindi ritengo che in un certo senso la normativa voglia salvaguardare quelle situazioni di tutela del rapporto di lavoro quando magari l'INPS o non ha i fondi oppure sono decorsi i termini, certo. Quindi non può riconoscere l'indennità di disoccupazione, l'indennità in un'unica soluzione, sì. del trattamento. Quindi io direi che comunque la domanda deve essere presentata. Dopodiché ovviamente i tempi tecnici per l'emissione delle circolari dell'INPS effettivamente sono sempre un po' lunghi, però il diritto si acquisisce nel momento in cui la domanda viene presentata, quindi ovviamente ci sarà poi, presumo, mi auguro, anche una graduatoria nell'evadere poi le domande presentate. Ecco, quindi come al solito c'è anche poi confusione appunto nel quelli che saranno i futuri criteri. Allora, il consiglio quindi è comunque presentare questa domanda. Allora, io ringrazio i nostri ospiti, Anna che ci ha presentato il caso e Maria Luisa De Cia che è Presidente della Commissione del Lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Se ci fossero situazioni simili a queste, segnalatecele. Io ringrazio in regia Pietro La Corte e in studio Elisabetta Fusconi e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata.